Ma una domanda sorge spontanea ed è stata sollevata anche da alcuni nostri amici sul profilo Facebook. Se proteggiamo la pelle con creme, filtri, come facciamo a fare scorta di vitamina D, che sappiamo è la vitamina del sole, se così possiamo dire, è una vitamina che vanta numerose virtù? Qua abbiamo bisogno di, del professor Giuseppe Remuzzi. Buongiorno professore. Buongiorno. Le abbreviavo già il nome, coordinatore delle ricerche per l'Istituto Mario Negri di Bergamo. Professore, se noi ci mettiamo queste creme e continuiamo a metterle durante tutta l'estate, che cosa succede? Possiamo avere dei problemi per la sintesi della vitamina D? Beh, la sintesi della vitamina D avviene attraverso la pelle. Noi assorbiamo attraverso la pelle l'energia del sole e lì c'è un precursore della vitamina D che deve essere trasformato proprio dall'energia solare per poi essere ulteriormente trasformato dal fegato e dal rene e diventare la vitamina D attiva. La vitamina D è un componente importantissimo della nostra vita e oggi tantissime malattie sembra che possano addirittura riconoscere nella carenza di vitamina D come minimo un fattore predisponente. Le creme solari certo proteggono dalle scottature, ma inibiscono la capacità di sintetizzare vitamina D. E quindi questo è un compromesso che bisogna trovare. Non dobbiamo mettere le creme per non scottarci, ma certamente se noi ci spalmiamo completamente di creme, perdiamo la cosa più importante che è quello che c'è dell'estate, il sole, che aiuta poi a passare un inverno tranquillo e a proteggerci da tante malattie proprio grazie alla vitamina D. E quindi il consiglio è usare la testa, esporsi nei giorni, nelle ore meno è il calde? Buon senso, come sempre, il consiglio è il buon senso. All'inizio certamente è importante mettere queste creme per evitare le scottature. Poi io penso che al sole, se uno ci sta nelle ore più fresche, mettiamo dalle 11 del mattino fino alle 11 del mattino e dopo le 5 del pomeriggio, e sta sostanzialmente all'ombra nel resto del tempo, penso che riusciamo ad avere una massima attività di esposizione ai raggi che consenta di sintetizzare abbastanza vitamina D senza avere tutti i difetti delle rughe e di tutto quello che succede con un'esposizione eccessiva. Penso che la cosa più sbagliata sia quella di stare tantissimo tempo al sole nelle ore più calde e pieni di crema. Questa è probabilmente la cosa più sbagliata da fare. Professor Remuzzi, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi, buona giornata.